vogliamo soprattutto ringraziare questa fantastica avventura, questi 3 giorni che poi durano tutto l'anno. Quindi tutti i ragazzi del colletto di Via Tirasso. Le ragazze! Qualcuno dice! Tutto lì a un cavallo! 40 anni di storia con questo spazio! Un ringraziamento speciale va da Youth! A tutte le persone che hanno montato, smontato la cascina Contina! E soprattutto questa edizione la vogliamo dedicare ai vignaioli con cui abbiamo condiviso un sacco di riflessioni, un sacco di progettualità, di emozioni, di festa, che non ci sono più, che però continuano insieme a noi, perché li pensiamo sempre, li abbiamo visti scritti anche in magazzino. Quindi Pino Ratto, Eri Spagnol, e la parola della Basia. Come ogni anno, come da 8 anni, è in mano a Luciana, la ragazza del Leoncavallo, 89 anni, da 40 anni qua insieme a noi. Ringraziamo veramente tutti e poi ci rivediamo a marzo per Sid Vicious, per seminare ancora, per parlare di semi, di agricoltura, a pochi mesi dal Blef Expo. L'agricoltura è una cosa seria, l'abbiamo vista in questi giorni. E allora chi è il vincitore della Roncola d'Oro di quest'anno? È uno che frequenta questo spazio dalla prima edizione con Veronelli, con noi, quando si chiamava Critical Wine. E allora abbiamo premiato vignaioli biologici, vignaioli naturali. Come lo chiamiamo questo produttore? Un vignaiolo convenzionale? Boh, un vignaiolo che c'ha lo zio che va a caccia? Vogliamo dare ancora qualche indizio? Un vignaiolo che sta a nord-est? Sì, è lui! Le Pignele, Aldrighetti! A scaricare cartone su cartone, a stringere le mani, era poco più di un giovincello, ma si è nascosto, forse vergogna? Arriva, arriva, no? Dov'è? Chiediamo a Silvia, la sorella, che lo accompagna ad aiutarci. Dove è andato? Arriva, arriva! Vogliamo tutte e due però, Cecilia! Non sappiamo dov'è Nicola, mistero, se sarà mica incostato, cazzo! Nicola! Vale. Uno, due, tre. Grazie di tutto. Grazie di tutto. Ringraziamo i ragazzi del Folletto, Leon Cavallo, che ci hanno ospitati. Sì, veramente una cosa molto emozionante. Poi vado tanto. Non so se avete visto il livello del rossore. Non so. Comunque grazie mille, veramente grazie, grazie tante. Grazie tantissimo ragazzi del Folletto, perché siete veramente, veramente fantastici. Veramente. Vorrei un complimento tanto per dire, ma ogni anno quando arriva novembre, dai che andiamo a Leo Cavallo, dai che andiamo a Leo Cavallo. Quindi veramente grazie mille, è una gran festa venire qua, veramente.